9 in punto, la versione di Oscar. Un inizio un po' traumatico perché ho travolto quasi il microfono. Se avete sentito un sinistro rumore, era Oscar Giannino che un po' come un gatto, un po' devo dire maldestro, si muoveva in maniera impropria e quindi vi chiedo scusa. Eccoci al tema della giornata. Avevo fatto questa domanda nel lanciare il tema della trasmissione su chi avesse più titolo, diciamo così, per meritare la cittadinanza italiana, se magari il lontano discendente di un italiano che certo è emigrato molti decenni fa, ma il cui discendente non sa più una parola di italiano e magari sta in Australia, non sa nulla e non conosce nulla del nostro paese, eppure ne ha diritto, oppure se invece il figlio di un immigrato che compie già regolari studi in Italia e che però non ne ha diritto oggi. Perché questa domanda? Perché siamo diventati un paese non solo di transito, ma di sempre più stabile e sempre crescente radicamento di immigrazione. Sono più di 4 milioni gli immigrati regolari in Italia e da questo punto di vista c'è chi pensa che sia venuto il momento di radicare un principio diverso per l'ottenimento della cittadinanza italiana. Qualche cosa non solo legato al sangue, ma al territorio, cioè dove si nasce, e che è un principio abbastanza esteso nei paesi che sono oggetto di forti flussi migratori, e soprattutto con un processo di attribuzione della cittadinanza non automatica, in base esclusivamente al numero di anni in cui si risiede nel paese, 10 nel nostro caso, ma con un processo attivo, cioè con un numero di anni magari inferiore, ma verificando bene qual è lo stato di adesione, di conoscenza da parte di chi sta nel nostro paese alle principi fondamentali a cui si ispira il nostro ordinamento, la nostra Costituzione, la nostra lingua, un minimo di reddito, e quindi con un processo di verifica e anche di adesione attiva, una specie di patto di cittadinanza esplicitamente chiesto, verificato dalle autorità italiane e sottoscritto da parte di chi fa domanda dopo un numero di anni però inferiore a quello attuale previsto nel nostro ordinamento. Di questo stiamo parlando, è una proposta di legge che ha la caratteristica oltretutto di essere bipartisan, come si suol dire, cioè ha l'appoggio di elementi della maggioranza e dell'opposizione, nasce dalla convergenza di elementi della maggioranza e dell'opposizione, e infatti io vi presento i suoi primi firmatari, che sono Fabio Granata, deputato della PDL. Buongiorno onorevole Granata. Buongiorno. E Andrea Sarubbi, deputato del PD, coprimo firmatario di questo progetto di legge. Buongiorno onorevole Sarubbi. Buongiorno a voi. E naturalmente abbiamo con noi anche chi dissente da queste svolte in materia di attribuzione della cittadinanza, in materia di attribuzione della cittadinanza a minori che compiono corsi di studi nel nostro paese, e alla un numero di anni inferiore per questa attribuzione di una cittadinanza attiva. Abbiamo con noi l'onorevole Luciano Dussin, che è vicepresidente vicario della Lega Nord alla Camera. Buongiorno onorevole Dussin. Buongiorno a voi. Allora, vorrei iniziare da Fabio Granata, per innanzitutto per spendere qualche ulteriore parola di chiarimento dei tanti punti di questa proposta, e le chiederei anche immediatamente di entrare un pochino nel cotè politico della faccenda, perché io non vorrei tanto approfondire il cotè politico, però se lei spende qualche parola all'inizio lo mettiamo in un angolo e ci occupiamo solo del merito. Perché dico cotè politico? Perché inevitabilmente questa proposta di legge, nata dalla convergenza appunto di esponenti della maggioranza e dell'opposizione, è finita per diventare, da quest'estate fino anche ai giornali di oggi, trovate il punto ritrattato sui giornali di oggi, come uno dei classici esempi a conferma del fatto che c'è nella maggioranza chi ha una logica diversa dal pura mantenimento della maggioranza e del governo in piedi. Fini, i deputati più vicini a Fini che vogliono rompere con la PDL, vogliono mostrare i muscoli rispetto all'eccesso di forza della Lega e così via. La prego di spendere qualche parola anche su questo, perché devo dire la verità, io non so se poi nelle telefonate ci dovremo tornare sopra, però a me non interessa tanto l'aspetto politologico o intrapartitico della faccenda. Mi interessa invece capire se questo progetto di legge davvero è il precipitato di una convergenza, e magari in Parlamento può andare avanti in maniera più felice di altri progetti che sono bandiera ma non vanno avanti, oppure no. Quindi sia sugli aspetti di merito che sugli aspetti di contesto, per così dire. Onorevole Granata. Sì, Innanzitutto una premessa, è una proposta di legge di iniziativa parlamentare che non vuole mostrare i muscoli ad alcuno, che non vuole rompere nulla, che semplicemente prende atto di questioni legate all'attualità italiana e che formula una proposta per certi versi rivoluzionaria ma molto legata pragmaticamente alla realtà dell'Italia, che però è una proposta che ha una fortissima implicazione politica. Un'altra premessa doverosa è che non è un'iniziativa che ha il sostegno ufficiale da parte del PDL, peraltro non ce l'ha ufficiale neanche da parte del PD e degli altri partiti, è una proposta di iniziativa parlamentare che sottolinea ciò che tante volte si è detto e che noi applichiamo, cioè che il Parlamento ha una sua sovranità e qualora si trova una maggioranza su una proposta di legge importante, come riteniamo essere questa proposta di legge, è espressione della rappresentatività popolare votarla e approvarla oppure respingerla. Quindi non si tratta di un espediente tattico-strategico per ridimensionare qualcuno nella maggioranza. Io ho grande rispetto per l'azione politica della Lega Nord, ma sto nel PDL, è una cultura diversa da quella della Lega Nord, siamo alleati realmente alla Lega Nord. Su questo punto dissentiamo. Noi proponiamo una idea politica della cittadinanza che è nel solco della tradizione italiana. L'Italia è una grande civiltà che ha un'identità dinamica e che per certi versi è andata avanti per contaminazioni. Voglio rifarmi alle radici classiche del Civis Romano Susum, ma successivamente l'Ecumene Federiciana, tanto per fare un esempio storico importante, di Federico II in Sicilia, con una contaminazione che ha dato frutti straordinari, o il Rinascimento, o successivamente tutto ciò che è italiano è frutto di una capacità di sintesi certamente originalissima e legata alla nostra identità, ma la nostra identità è appunto non chiusa ma dinamica. Oggi ci troviamo di fronte a una realtà mondiale in cui c'è una fortissima emigrazione, c'è un flusso di emigrazione regolare e regolarizzata, quindi ci rivolgiamo, diciamolo subito, soltanto ai migranti residenti regolarmente in Italia, quindi con lavoro regolare e con la volontà di integrazione, di diventare cittadini italiani. A questi diciamo, anziché un elemento concessorio dopo 10 anni e più di cittadinanza senza alcuna qualità, noi passiamo a una fase qualitativa, perché proponiamo qualcosa su cui peraltro anche alcuni autorevolissimi esponenti della Lega sono d'accordo, cioè un esame di integrazione legato alla conoscenza della lingua, legato alla conoscenza della storia e dell'identità culturale italiana, che è appunto un'identità plurale, per usare un termine caro alla Lega, appunto un'identità federale fin dalle più antiche origini, nel senso che è l'insieme di tante dinamiche e differenze, e allo stesso tempo chiediamo un giuramento solenne sulla bandiera e sulla Costituzione, non come fatto burocratico ma come fatto politico. Concludo dicendo che tutto questo viene poi, a questo viene aggiunto la possibilità per i figli nati in Italia ma da cittadini regolarmente, cioè i migranti regolarmente residenti in Italia da almeno 5 anni, di diventare cittadini italiani, perché vogliamo evitare che nella crescita, a iniziare dal dato scolastico, non ci sia una sorta di terra di nessuno dove il ragazzo, non essendo stato accolto sulla nuova cittadinanza, tende, è notizia di questi giorni, è attualità, a richiudersi nella vecchia identità di appartenenza, con tutto ciò che comporta poi la difficoltà del processo di integrazione. In due parole la questione l'abbiamo posta in questi termini. Allora, onorevole Dussin, su quali punti è più forte, meno facilmente superabile il dissenso, la divergenza di opinioni da parte della Lega? Il punto è quello di far sì di dimezzare o comunque di diminuire la permanenza regolare in Italia di cittadini extracomunitari per fargli ottenere la cittadinanza, cioè sui 10 anni di permanenza noi da là non possiamo muoverci. Potremmo ragionare su qualsiasi altro contenuto della proposta, ma su quello no. Si potrebbe agevolare questo diritto evitando quello che succede oggi, perché con le lungaggini burocratiche che ci sono uno rimane qua 10 anni in regola e dopo, per ottenere la cittadinanza, deve attenderne almeno altri 2 o 3. Là si può lavorare, ma scendere al di sotto no. Però c'è una cosa, tutte le iniziative parlamentari sono legittime, mancherebbe altro. Però noi segnaliamo che questa non rientra nelle necessità e neanche negli entusiasmi dei cittadini italiani, perché le priorità, soprattutto in questi periodi, sono altre. È dal 1996 che il sottoscritto assiste a tentativi della sinistra per modificare l'attuale legge per la concessione della cittadinanza agli extracomunitari e mai se ne è fatto nulla neanche durante i periodi in cui governava il centro-sinistra con Prodi, perché è materia molto delicata, perché si scontra, come ricordavo prima, con i sentimenti e le esigenze anche del cittadino elettore, che non vede molto bene queste proposte. Adesso sembra ci sia l'aiuto, arrivi una sponda dall'altra parte. Io vorrei ricordare una cosa, che mai nei programmi elettorali delle ultime consultazioni qualcuno ha inserito questo tentativo, perché equivale a prendere zero voti, quindi la lontananza dalle esigenze dei cittadini è dimostrato da questo. Se dopo si vuole giocare una partita truccata tra virgolette, legittima ma truccata rispetto ai sentimenti di chi ci manda a rappresentarli in Parlamento, ognuno dopo si assume le sue responsabilità, però voglio ricordare che è questo quello che succede. Nessuno nei programmi elettorali dice: un minuto dopo che ci avete mandato in Parlamento noi proporremo una legge per agevolare la cittadinanza agli immigrati o concedergli il voto, perché equivale a zero voti. Dopodiché si attivano determinate proposte, se ci sarà una maggioranza trasversale legata a determinate logiche dinamiche di natura politica, ognuno dopo si presenterà di fronte all'elettorato e ne trarrà le conseguenze. Benissimo. Tra gli sms che hanno iniziato ad arrivare copiosi ce ne sono alcuni che mi colpiscono. Per esempio c'è Mario da Bologna che dice: ma guardate che se introducessimo il principio di un test per la cittadinanza molti cittadini italiani probabilmente non lo supererebbero. Chissà, forse è abbastanza vero. C'è chi fa notare poi che magari chi è più intransigente nella difesa di una certa idea dell'Italia nazione poco o meno aperta, diciamo così, facilmente alla riconoscere la cittadinanza agli immigrati, può capitare che poi sbagli l'ordine delle bande di colore per il tricolore per la solidarietà ai caduti in Afghanistan. E abbiamo poi anche Carlo da Monza. Sentiamo Carlo da Monza. Buongiorno. Giannino, buongiorno ai suoi ospiti. Io vi chiamo perché una legge molto bella che ho visto sulla cittadinanza è quella che usano qua in Svizzera. In Svizzera, se lei nasce ma i suoi genitori non sono svizzeri, lei mantiene la cittadinanza dei suoi genitori. Poi a 18 anni si fa un bel esame di lingua, di storia svizzera, di lingua, non la cosa ridicola che ho sentito a livello A2, che tra l'altro livello A2 vuol dire che uno fa la spesa con difficoltà, ma a livello decente, livello C1, come se lei vuole lavorare in Germania, le chiedono un certificato di C1. A quel punto può avere la cittadinanza. Viceversa, se lei viene da un paese non europeo, vuole la cittadinanza ed è già adulto, può fare questo esame. Anche perché io sento parlare di extracomunitari e mi dà l'impressione che si parli di gente che viene, non so, dall'Africa. Ma può essere anche un americano che vuol venire qua ad avere la cittadinanza, o può essere uno svizzero, anche loro sono extracomunitari. E oggi possiamo immaginare che forse gli svizzeri aumenti questo numero solo perché cade lo scudo bancario, perché altrimenti francamente io farei il contrario. Ecco, abbiamo anche Daniel da Vicenza, sentiamo anche Daniel. Sì, buongiorno, mi scatti il disturbo, io sono rumeno, sono dal 91 in Italia e dal 95 ho documenti in regola, sono sposato, ho due figli, mia moglie fa l'infermiera e io qui faccio l'autista, anche se ho studiato, ho fatto 18 anni di scuola e ho fatto l'università. Comunque, parlo quattro lingue, anche mia moglie, e vi dico la verità, io non vedo perché io o altri non possono prendere una cittadinanza, perché io pago le tasse qui, mi sono comprato la casa qui, ho i figli che studiano, ad essere direttorato. Alt, io però non ho capito una cosa, lei dice che in Italia dal 90, ho sentito? 95. Dal 95, lei 10 anni. 95 in regola. Ecco, quindi voglio dire, lei 10 anni in regola dovrebbe averli maturati, perché dice che non può prenderla? Bene, ho fatto la richiesta, mi dicono che saranno, non so adesso quando sarà, è quello che si deve fare per ottenere la cittadinanza. Ma io vi dico la verità, io non vado in mio paese a votare, perché quello che vive là sente la pulsazione del paese, io qui la sento qui. Non so se mi spiego. No, certo. Come uno italiano che sta in America non viene mai qui, non sente la pulsazione, non ha bisogno di votare, lui deve votare in America o che ne so in quale paese. Quindi, malgrado siano più che abbondantemente trascorsi 10 anni, ancora non gliela danno perché non c'è ancora da aspettare, ho capito bene? Sì, sì, bene, io ho fatto la richiesta 2 anni e mezzo in fa. E ho messo i documenti l'anno scorso da nuovo in prefettura, quello che mi hanno richiesto, e adesso mi hanno detto che me la daranno. Grazie. Tempo non lo so. Grazie Daniel, quindi qui altro che 10 anni, di più, molto di più, visto che sta dall'inizio degli anni 90 a Daniel ed è stabilmente, regolarmente lavora nel nostro paese. Ed eccoci, Oscar Genino tornato in studio, ci stiamo occupando di questo progetto di legge bipartisan per verificare se il Parlamento avrà la convergenza nel modificare le norme dell'attribuzione di cittadinanza attualmente disciplinata da una legge, quella 91 del 92, che lo ricordo a chi ci ascolta, definisce alcuni principi per cui chi è il cittadino italiano e chi è a padre o madre italiani o nasce in Italia da genitori ignoti o apolidi, e con tutti questi casi la cittadinanza è automatica, mentre gli stranieri quando diventano cittadini italiani con le norme oggi vigenti? Quando sposano italiani, tanti finti matrimoni anche per ottenere attraverso questa strada la cittadinanza, oppure dopo 10 anni di residenza, 5 se si è un apolide o se si è un rifugiato politico e 4 se invece si è cittadini europei di altri paesi membri dell'Unione Europea. Con il progetto di cui stiamo discutendo i tempi si dimezzano, da 10 come ordine generale si passa a 5, con questo principio attivo della verifica, di un esame di conoscenza dei principi generali del nostro ordinamento e della lingua italiana. Ricominciamo con Omar da Fermo e poi l'onorevole Sarubi. Omar da Fermo, prego, che pensa di questo progetto? Salve, salve, buongiorno. Io sono 20 anni che vivo in Italia, quindi dall'89, quindi io ho avuto il permesso di soggiorno quando era venuta la sanatoria col Martelli, il ministro, l'ex ministro Martelli. Noi ci troviamo già in difficoltà di rinnovare i permessi di soggiorno, figuriamoci la cittadinanza. Non possiamo votare né nei comuni né di nessuna parte. Quindi siamo discriminati in tutti i sensi. Mi sentite, no? Sì, sì. Quindi siamo discriminati in tutti i sensi in Italia. Questa è la verità, la realtà. Io non capisco perché questa cittadinanza la devono prendere solo i figli nati in Italia, perché io conosco alcune storie di alcuni ragazzini che sono venuti da paesi extracomunitari, no? E quando hanno compiuto una certa età, non potendo continuare la scuola, è stato chiesto a loro come dire, il permesso di soggiorno, di trovarsi un lavoro. Alcuni sono stati quasi espulsi dall'Italia. Quindi io veramente... mi sembra molto strano, in altri paesi europei questi problemi sono inesistenti. Benissimo, io ringrazio Omar, devo dire che abbiamo un picco di telefonate di molti altri che sulla linea della telefonata precedente ci testimoniano della lentezza nell'ottenere con l'attuale legge, con quella dei 10 anni, dopo i 10 anni, dopo 1, 2, 3, 4 anni che sono scaduti i 10 anni, la cittadinanza. Quindi qui c'è un problema di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, un problema di brunetta per essere chiari. Però torniamo al merito. Diceva Dussin, rivolgendosi a Granata, insomma, della PDN, in realtà tu non sei stato eletto per questo, cioè non l'hai detto nel programma. Anche questo filone scatena un mucchio di commenti dei nostri ascoltatori, perché c'è chi è completamente d'accordo, tanti, con Dussin nel notare che non faceva parte del blocco di proposte programmatiche con cui il centrodestra ha vinto le elezioni. C'è però chi dice anche, cospicuo numero, devo dire a Dussin, sì, però neanche lo scudo fiscale stava nel programma elettorale, eppure lo adottate al volo. Sarubi, lei pensa che nella valutazione concreta della condizione parlamentare questo progetto di legge sia un pourparler, oppure davvero c'è speranza che passi? Allora, guardi, anch'io parlo poco della politicienne, però, perché poi vorrei entrare nel merito anch'io. Io non so, mi piacerebbe che per l'italiano valesse la stessa parola spagnola che è esperar, no? Esperar in spagnolo significa sia sperare che aspettarsi qualche cosa. Allora, quello che io spero è molto chiaro, cioè che si possa trovare una convergenza. Quello che io mi aspetto e che purtroppo, facendo leva sulle prossime amministrative, ci sia da parte della Lega, ma veramente spero che non sia così, un atteggiamento un po' più rigido di quanto la ragione farebbe pensare, perché chiaramente, come diceva l'onorevole Dussin, poi ci si trova di fronte a una richiesta di voti e ci sono dei provvedimenti che non sono particolarmente popolari. Allora io vorrei rassicurare su questo l'onorevole Dussin dicendo che se la legge viene approvata da tutto il Parlamento, un po' di voti li perdiamo tutti, per cui gli equilibri non vengono alterati. Altro il discorso è se si vuole monetizzare invece un dissenso, ma questo mi dispiacerebbe, perché poi significherebbe davvero buttare nel secchio una riforma della quale l'Italia avrebbe bisogno soltanto per scopi elettorali. Questo, così diciamo, è il mio commento politico. Questa è la parte politique, mentre nel merito? Ah, guardi, nel merito avrei tantissime cose da dire, spero di riuscire a dirle abbastanza in tempo. No, vabbè, ma cominciamo però, altrimenti... Allora, la prima, guardi, una risposta a Omar, che ha appena parlato, lui diceva perché soltanto i ragazzi nati in Italia. Beh, intanto vede, già il discorso dei ragazzi nati in Italia sta facendo scoppiare un pandemonio. In ogni caso, ha detto bene Fabio Granata all'inizio spiegando la legge, ma c'è un altro pezzetto che dobbiamo aggiungere. Cioè, noi abbiamo detto, se un ragazzo nasce in Italia da genitori regolarmente residenti da 5 anni, eccetera, la cittadinanza è immediata, dunque l'abbiamo chiamato ius soli temperato, perché è subordinato alla residenza da 5 anni della famiglia di origine. La cittadinanza chiaramente va al ragazzo, non va immediatamente anche ai genitori. Se il ragazzo invece nasce da una famiglia che ancora non è regolarmente residente da 5 anni, perché non ha raggiunto questi termini, neanche per lui la cittadinanza è immediata, ma viene concessa al termine del completamento di un ciclo scolastico. Stesso discorso vale per, guardi, le faccio un esempio triste e tragico, Sanà, la ragazza marocchina che è stata uccisa verso Pordenone, è arrivata in Italia arrivata in Italia da bambina, aveva comunque completato un ciclo scolastico, quindi sarebbe stata una cittadina italiana, quindi anche per i bambini non nati in Italia, però arrivati qui, che hanno completato un ciclo scolastico. A proposito di Sanà, sempre per stare nel merito, guardi, io prendo veramente come un buon intervento quello che ha fatto l'onorevole Dussin, lo dico senza ironia, perché quando lui dice noi non siamo d'accordo sulla permanenza sotto i 10 anni, però potremmo ragionare su qualsiasi altro contenuto della proposta, io me lo sono segnato su un foglio questo potremmo ragionare su qualsiasi altro contenuto della proposta, perché secondo me è una bella apertura, al di là poi dei toni, certo. Io però questo mi auguro che poi... No, ma anche allora... sui toni adesso l'onorevole Dussin ha svolto un ragionamento di equilibrato dissenso. È normale, però se già un esponente così autorevole della Lega mi dice potremmo ragionare, io sono molto contento, guardi, mi dà proprio fiducia nella politica questo, perché secondo me è quello che si aspettano i cittadini. Cioè, è vero, forse non sarà un'iniziativa di legge molto popolare, però è anche vera un'altra cosa, che i cittadini italiani sono stanchi di una politica che stia sempre a litigare su tutto. Vorrebbero, credo, a mio parere, da maggioranza e opposizione, un atteggiamento comune nel bene del paese su certe cose. Allora, secondo me, questa potrebbe essere un esercizio di dialogo importante. Per quello io ieri, quando presentavamo la proposta di legge, ho detto, guardate, noi abbiamo raccolto 50 firme, 20 PD, 20 PDL, 5 UDC, 5 Italia dei Valori, ma non l'abbiamo fatto per fare una prova di muscoli, sennò potevamo raccogliere anche il doppio. Noi vogliamo fare una prova di dialogo. Io mi auguro che la prova di dialogo si possa fare. Vabbè, chiudo parentesi e torno su Sanà. Sanà era qui da 9 anni, quindi non aveva i requisiti neanche per chiedere la cittadinanza italiana. Certo. Poi l'abbiamo visto tutti come era italiana questa ragazza, no? Era anche troppo italiana. E c'era un papà che invece era qui da 11 anni. Quindi questi dati li aveva per diventare cittadino italiano. Allora io invito la Lega, ma anche tutti i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento, a ragionare su un fatto. Non è fondamentale il dato temporale, cioè perlomeno non può essere l'unico criterio. Per questo noi abbiamo spostato l'attenzione, abbiamo detto anziché fare una cosa automatica, facciamo una cosa qualitativa, cioè anziché fare una cosa concessoria, spostiamoci sulla qualità, vediamo veramente chi è interessato all'Italia e chi vuole bene all'Italia. Detto questo, potremmo discutere certamente sui 5 anni, potremmo discutere sulle procedure, potremmo discutere su tutto. Quello che però dobbiamo tenere in considerazione che gli altri paesi, e questo non lo dico io, ma questo lo scrive la Zincone sulla stampa della settimana scorsa, quando ci ricorda che intanto i 5 anni erano quelli dell'Italia liberale del 1912 e che poi in Francia, in Svezia, in Regno Unito, anche qui sono 5 anni, e il Portogallo, che condivideva con l'Italia 10 anni, ha abbassato questo termine a 6. Allora, l'ultima cosa che vorrei dire, poi scusate se ho parlato un po', ma era meglio... No, certo. E ringraziare il Sole 24 Ore, non so chi l'abbia scritta veramente stamattina, però c'è un piccolo pezzettino, saranno forse 15 righe, saranno 10 righe, che si conclude così, quando parla della nostra legge. Dice: una buona legge la Sarubi Granata. lo è per lo ius soli, lo è perché è giusto rendere più ragionevoli i tempi per ottenere il passaporto italiano, lo è ancora di più perché contemporaneamente fissa un percorso chiaro di adesione ai nostri valori e alla nostra Costituzione. Conclude il Sole 24 Ore. I problemi dell'immigrazione richiedono soluzioni, non schemi ideologici. Per una volta la politica dimostra di saperle dare. Allora io vi ringrazio perché secondo me avete capito lo spirito. Spero, guardate, in tutta onestà che lo capisca anche la Lega. Altri direbbero naturalmente, criticando, che il giornalista deve fare solo il pezzo senza dare il giudizio. Credo che fosse di Barbara Fiammari l'articolo. Io devo dire all'onorevole Dussini che sono molto colpito, non che non lo sapessi, ma la velocità di afflusso della quantità di messaggi di Ali da Torino, i nomi sono tantissimi, dal Senegal, 22 anni in Italia e così via, la quantità di italiani che altro che 10 anni, come diceva lei, i 10 anni li vedono dal binocolo, qui c'è gente che la deposita dopo i 10 anni e dopo tanti anni in più dei 10 anni di residenza regolare, casellario, penale pulito, le domande nel nostro paese e dopo 2, 3, 4 anni vengono naturalmente così. Non si può pensare a qualcosa di particolare per risolvere questo problema intanto a chi è in regola con i requisiti e non ottiene risposta, onorevole Dussin, perché sono tantissimi. Ma si può cominciare ad esempio dopo 8 anni che uno è qua in Italia regolarmente, si potrebbe già concedergli la possibilità di fare richiesta, perché allo scadere di 10 anni, nei 2 anni che mancano per arrivare al suo diritto, si cominciano già eventualmente le procedure. Però dopo a chi si lamenta bisognerebbe valutare caso per caso, perché il requisito dei 10 anni per poter chiedere la cittadinanza italiana ha delle regole da rispettare, cioè se uno è rimasto qua, ha il codice penale pulito, non ha commesso reati ed è stato qua per 10 anni consecutivi ha diritto, ma moltissime domande che arrivano sono domande senza questi requisiti. Poi è facile lamentarsi, ma il problema c'è e va affrontato. Però bisogna stare attenti perché molti vendono dei diritti che non hanno e le regole servono per farli rispettare questi diritti. Dopo il problema riguarda una moltitudine di potenziali aventi la possibilità di anticipare la richiesta della cittadinanza, perché ce lo ricorda uno studio dell'ACLI, ad oggi se passa questa legge abbiamo 1.700.000 immigrati aventi diritto ad anticipare queste possibilità. E lei dice sono troppe, insomma. No, ma voglio ricordare anche il trend di crescita, perché ad oggi, ma ogni giorno che passa, il fenomeno aumenta in maniera progressiva, perché nel 2002 in Italia di extracomunitari regolari ne avevamo 1.300.000, nel 2008 siamo quasi a 4 milioni, sì. Nel 2012 probabilmente saranno 6 milioni di cittadini extracomunitari che avranno il diritto a chiedere, e concedere la cittadinanza così vuol dire concedere tutta una serie di diritti, di assistenze sociali, non è più possibile espellere l'extracomunitario che diventa cittadino italiano, e molti di questi otterranno la cittadinanza anche grazie a delle sanatorie che sono state fatte nel passato nei confronti di chi non sappiamo neanche da dove proveniva e che cosa faceva a casa sua. Quindi è molto complesso il quadro. Certo, e quindi lei dice andiamoci piano perché potremmo renderci conto che una marea improvvisa di nuovi cittadini, invece che rafforzare il tessuto sociale, se capisco bene il ragionamento, finirebbe poi per indebolirlo. Massimiliano da Verona, prego. Massimiliano. Buongiorno, a me è successo qualche mese fa di essere in un comune, davanti a me c'era una signora nordafricana che stava facendo il giuramento alla Costituzione italiana. Ora io vorrei chiedere, per voi la comprensione e il saper parlare italiano dove finisce? Perché metà della formula gliela letta l'ufficiale dell'anagrafe. Chiara la domanda, ma mi pare di capire che il progetto di legge di cui stiamo parlando è proprio volto non a una cosa meccanica, ma invece ad approfondire esattamente questo aspetto della questione. È vero, onorevole Granata? Certamente sì, infatti si deve superare un esame anche serio di conoscenza della lingua italiana e soprattutto la conoscenza dell'identità culturale italiana. Peraltro la battuta che spesso viene fatta, se molti cittadini italiani, anche sui piani dei comportamenti etici, parlo delle mafie, parlo di alcune questioni pesantissime presenti nel nostro paese, hanno diritto a essere cittadini italiani, quindi lì si dovrebbe fare una riflessione sulla possibilità di revoca, ma apriremmo un altro tipo di ragionamento. A me ha colpito moltissimo, se posso in un minuto, un aspetto delle ripetute, cioè saranno anche moltissime, di ciò che abbiamo ascoltato appunto da chi è intervenuto, soprattutto da parte del giovane, non più forse giovane rumeno, che diceva: noi sentiamo la pulsazione del paese. Cioè a me sembra che questa volontà di partecipazione politica alla vita della comunità sia molto italiana, cioè sia molto italiana perché c'è una volontà di partecipazione alla vita della polis. Io voglio ricordare, tornando a quelle che sono le nostre radici di popolo occidentale, l'antichità classica, Aristotele chiamava idiotes coloro i quali si ponevano fuori dalla partecipazione politica alla vita della polis e quindi alla cittadinanza. La nostra, in fondo, quella mia di Sarubi, è una piccola ma secondo me significativa proposta, per certi versi di chiamata alle armi, tra virgolette, a ripensare l'Italia ad una nuova cittadinanza attiva, che riesca per certi versi anche ad essere, come dire, molto, molto in linea con una volontà innovativa, che non significa un aperturismo. Guarda, io condivido le politiche di rigore. Ovviamente ci si deve discutere molto del diritto d'asilo che va, del diritto di asilo politico che va garantito, bisogna fare una riflessione attenta sui diritti soggettivi, umani, specie dei bambini e delle donne, ma la politica di rigore che porta avanti questo governo, come in Francia Sarkozy alto, è una politica necessaria, perché non dobbiamo dare l'idea che siamo aperti a ogni livello quantitativo di immigrazione. Detto questo, però, per chi risiede regolarmente in Italia, noi diciamo che la spinta all'integrazione deve essere quella di un passaggio qualitativo su questo progetto di cittadinanza. La devo interrompere perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, siamo già in ritardo di un minuto. Eccoci tornati in studio. C'è un altro tema sul quale i giornali in questi giorni, in questi mesi addirittura, hanno teso sempre a cambiare un po' le carte in tavola, invece che occuparsi del merito hanno attribuito a un altro tema di cui adesso parliamo in questo fine di trasmissione, un'altra volontà di scombinare le carte del centrodestra, di guardare da una parte o dall'altra, cioè centrodestra e opposizione. Io credo che sia invece una questione di merito, questa è la mia opinione, io sono molto toccato da quest'ultimo tema personalmente e dichiaro come sempre il mio punto di vista perché essendo toccato me ne sono occupato anche ai tempi di un referendum. Detto questo, tendo sempre a voler concentrarci sul merito e a tenere toni bassi su toni come questi. Sto parlando di che cosa? Di questo appello rivolto al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, da personalità del centrodestra, da parlamentari del centrodestra, sulla legge cosiddetta sul fine vita che è all'esame del Parlamento. E di questo appello io ho pregato l'onorevole Peppino Calderisi, che è con noi, di spiegarci in un paio di minuti qual è il senso, che cosa chiedete in questo appello. Ma buongiorno innanzitutto, chiediamo di ripensare rispetto al testo del Senato, alla sua impostazione, e questa impostazione diciamo di iperregolamentazione di questa materia così delicata, e di scegliere una strada diversa, in particolare di scegliere una strada che dice no all'accanimento terapeutico, no alla eutanasia, ma lascia poi uno spazio familiari, alla dichiarazione del paziente se non è più cosciente, al medico per prendere quelle decisioni difficilissime che sono difficili da codificare in anticipo perché i casi sono tantissimi, e lasciare, si è parlato di cosiddetta zona grigia, insomma non so se il termine rende l'idea, può rendere l'idea, lasciare uno spazio di decisione senza pensare di poter regolamentare, che sia lo Stato, che siano i parlamentari a dover decidere loro per tutti. Quindi un ripensamento, anche perché, questa è una mia aggiunta, il testo che è stato approvato ha forti dubbi diciamo di passare il vaglio della Corte Costituzionale, perché è un'impostazione contraddittoria. Non c'è un bilanciamento fra i beni e i diritti in gioco, diritto alla vita, diritto alla salute, dovere di cura del medico da una parte, diritto all'autodeterminazione dall'altra parte, sancito dall'articolo 32, secondo comma della Costituzione. C'è una anche non c'è una definizione legale di eutanasia, si fa rinvio a tre articoli del codice penale, l'omicidio del consenziente, l'assistenza o l'aiuto al suicidio, che non sono situazioni assimilabili a quelle del fine vita. E quindi c'è anche un rischio di lasciare uno spazio ai magistrati maggiore di quello che con la legge si vorrebbe invece coprire, quindi di ottenere l'effetto opposto. Per evitare che i magistrati siano loro a decidere queste situazioni, come è successo sul caso Englaro, si fa una legge, ma in realtà questa legge poi aumenta gli spazi di intervento della magistratura. Quindi sotto questo punto di vista è bene anche rivedere il testo ed evitare che la legge, che ha una certa impostazione, poi venga trasformata dagli interventi della Corte in una legge dal significato, dall'orientamento molto diverso rispetto a quello originario. Ci auguriamo che questo dibattito sia reale, che ci sia un confronto vero nel merito, perché, ripeto, anche per me è un problema di merito, e che si arrivi a un testo più equilibrato. Se si vuol fare un testo sulla DAT, poi non si può negare in alcune fattispecie valore alla DAT e far sì che il medico possa contraddire non solo le dichiarazioni anticipate di trattamento, ma anche la volontà del fiduciario, anche la volontà di un collegio medico di tre medici messi dalla struttura sanitaria. Insomma, sarebbe un modo di far prevalere nettamente una serie di, in questo bilanciamento, far prevalere dei diritti negando completamente il diritto all'autodeterminazione. Onorevole Calderisi, quindi, le devo chiedere un'impressione rapida, ma aiuta o ostacola per progetti come questo appello che avete lanciato, ma per il progetto di cui abbiamo parlato poi per tre quarti della trasmissione, quello di una diversa legge di cittadinanza, anche lì tentando convergenze di merito invece che divisioni, aiuta un'articolazione maggiore del dibattito nel centrodestra come quella un po' incandescente degli ultimi tempi, o ostacola secondo lei? Ma io spero che favorisca, ecco, diciamo che dico una cosa un po' più politica, io mi auguro che sia il PDL come tale a organizzare un dibattito nelle proprie sedi, ma organizzando anche convegni, seminari, approfondimenti di riflessione. Cioè, io, per dirla tutta, quando Fini è intervenuto al congresso del PDL, ho salutato positivamente quell'intervento, l'ho un po' battezzato come il vero atto di nascita del PDL. Poi però mi sono molto dispiaciuto che, anziché da parte di Fini chiedere che fosse il PDL come tale a essere sede di questi approfondimenti, di queste riflessioni e discussioni, invece si è mossi in modo diverso, con iniziative di fondazioni, di convegni della Camera stessa, cioè cose assolutamente legittime, per carità. Però credo che sia importante che invece la discussione, è proprio per far crescere il PDL, far nascere per certi versi il PDL, avvenga in queste sedi, che siano ufficialmente il PDL a organizzare approfondimenti, seminari, discussioni. Cioè, abbiamo per esempio le posizioni su tutta una serie di materie da parte del PPE in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Germania, confrontiamoci con queste posizioni. E facciamone tesoro, dice lei. Sicuramente, io ricordo che quell'intervento a cui lei si riferisce da parte dell'onorevole Fini è un intervento in cui l'onorevole Fini stesso riconobbe: io probabilmente sono in minoranza su molti di questi temi su cui sto contraddistinguendo la mia azione politica, però insomma parliamone. Anche l'onorevole Tremonti, nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, ha detto: le opposizioni di Fini dobbiamo parlarne all'interno del partito. Quindi sono i primi passi nell'articolazione di una forza politica che nasce con dei crismi un po' particolari, come quelli di incardinarsi su una leadership personale e carismatica come la PDL. Io ringrazio l'onorevole Granata, l'onorevole Sarubi, l'onorevole Dussin della Lega, molti altri messaggi, sono d'accordo con lui, io lo dico ai parlamentari firmatari perché ne stiamo ottenendo molti, e l'onorevole Calderisi. Mi scuso con Enrico da Roma e Sorin da Padova che erano a telefono ma non siamo riusciti a mandarli in collegamento. Ringrazio in regia Filippo Reggi e in redazione il preziosissimo Alessandro Marco Tulli. La linea al Giornale Radio, appuntamento a domani.